Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Speciale Expo 2015 di Roberta Giordano. Noi volevamo regole condivise. Renzi ci ha imbrogliato e Renzi sta pagando. Quasi minaccioso Brunetta, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi su questa terza fiducia che il governo, quindi Renzi, ha ottenuto sull'Italicum. L'avete sentito teso, perché alta tensione naturalmente tra le opposizioni e anche tra la minoranza Dem. Ieri abbiamo avuto qui Effetto Notte Rosy Bindi, che ne ha cantate un po', e comunque insomma vedremo poi lunedì, c'è il voto finale, che cosa succederà lì. Non ci sarà la fiducia, ci sarà probabilmente il voto segreto, si vedrà che cosa succederà sull'Italicum. Però per ora il cammino, diciamo, procede. Non parleremo ovviamente soltanto di politica stasera, perché ci sono sempre tanti argomenti, come sempre, con Effetto Notte, lo sapete, si volta pagina ogni poco per avere un quadro, diciamo, delle cose che succedono, d'attualità di vario tipo. Però vi avverto sin da subito, soprattutto per i poco resistenti, che stasera staremo insieme ben 2 ore, sino alle 23. Quindi, diciamo, i deboli di resistenza possono abbandonare quanto vogliono, ma in realtà voi sapete che più dure Effetto Notte e più sarete aggiornati, perché stasera ci sarà questa parte speciale appunto su Expo. Lo sapete che siamo alla vigilia, domani apre questa esposizione universale tanto attesa, tanto frenata da varie cose, ma a questo punto, tra ritardi, scandali, cose varie, difficoltà, domani parte. Già stasera c'è uno spettacolo in Piazza Duomo, un concerto di Bocelli con il quale ci collegheremo. Insomma, ci sono tantissime cose stasera, quindi mi raccomando, non perdetevi neanche un istante di Effetto Notte. E c'è anche una possibilità, oltre ai vostri messaggi, le vostre opinioni che potete mandare agli SMS, gli SMS al 349 238 6666, e i messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi chiedo: quali sono le vostre aspettative, le vostre riflessioni su Expo? Cosa pensate di questa, di questo grande evento che ci pone protagonisti nel mondo in questo momento? Cosa ne pensate? C'è anche questa novità, dicevo, stasera eccezionalmente ci potranno essere le telefonate all'800 24 00 24. Giusto qualcuna, pochine ne passeremo, perché sono tantissimi argomenti. Anzi, devo partire subito con la giornata. Italicum, il governo incassa il sì anche sulla terza fiducia, le opposizioni per protesta vanno fuori dall'aula, lunedì il voto finale. E poi Expo, festa alla vigilia in Piazza Duomo con Bocelli, ma gli anarchici rovinano l'attesa, assalto a Manpower e vetrine imbrattate. Pensioni, la consulta boccia il blocco delle pensioni della riforma Fornero, buco di 5 miliardi in 2 anni e torna a crescere la disoccupazione. Nigeria, l'esercito libera dalle grinfie di Boko Haram altre 150 donne, fra cui un centinaio di ragazze e decine di bambini. Calcio, Inzaghi per ora resta il tecnico del Milan, ma c'è incertezza sul futuro rossonero dopo il vertice con Mister B. Per la Juve festa senza curva, 2 giornate di squalifica per gli scontri al derby. Partiamo quindi dalla vigilia dell'Expo. Ormai è iniziato il conto alla rovescia per l'esposizione universale che apre domani 1 maggio a Milano e durerà sino al 31 ottobre. Ci sono anche timori per la sicurezza, se ne è parlato diverse volte. Questa mattina c'è stato il corteo di studenti che protestava, poi gli anarchici che hanno imbrattato le vetrine nelle vie del centro. Questa sera invece, vi dicevo, si attende la festa della vigilia in Piazza Duomo. Utilizzare gli studenti, le nuove generazioni, come manovalanza, questo è il modello. Gli studenti scendono in piazza, manifestano contro la precarietà, lo sfruttamento e la città vetrina, urlano attraverso i loro megafoni. Sono un migliaio, sfilano per le vie del centro, arrivano da tutta Italia ma anche da fuori, da Francia e Germania. Siamo qua per dimostrare la nostra solidarietà, dice Johanna, una ragazza tedesca. Studenti antagonisti partono da Expo Gate e puntano ai luoghi simbolo della città, così è con la vernice sui muri di banche, negozi, petardi e fumogeni. Tutto più o meno tranquillo, fino a quando un gruppo di ragazzi incappucciati e vestiti di nero inizia a lanciare sassi, bottiglie e uova contro la sede di Manpower, l'agenzia che ha reclutato le persone per lavorare a Expo. L'interviene la polizia, poi vi è una lite interna tra i simili Black Bloc e i collettivi. Sullo sfondo sempre il timore che si arrivi alla violenza. Abbiamo bloccato persone che volevano far male a Expo, dice Alfano. 3 tedeschi trovati con passamontagna verranno rimandati in Germania, mentre continuano i blitz nei centri sociali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come vi dicevo, ne parleremo dopo con questa edizione doppia di Effetto Notte, apertura di Expo che domani poi seguiremo anche con ampi speciali a cominciare dalle 9, tutto il palinsesto di Radio 24. Per ora però siamo sulla politica. Il governo oggi ha incassato, vi dicevo, altre due fiducie per l'Italicum, le opposizioni sono rimaste fuori dall'aula e lunedì il voto finale alla Camera. La scelta ancora una volta è l'Aventino, le opposizioni decidono di boicottare il terzo voto di fiducia sull'Italicum. A Montecitorio 342 sì, 15 no, un astenuto. Dopo una serie di contatti tra i vari capigruppo, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e SEL, non passano sotto lo scranno della presidenza di Montecitorio per votare no e minacciano anche di raccogliere le firme per il referendum abrogativo, una scelta incomprensibile per il vice segretario DEM Lorenzo Guerini. Ma francamente non è comprensibile, credo che ci sia la volontà di forzare un po' la polemica, però insomma penso che lunedì io mi auguro che in Aula ci possa essere la presenza di tutte le forze politiche, ciascuna con la propria posizione rispetto alla legge che stiamo per approvare. Riguardo l'assenza della minoranza DEM, Guerini spiega però che cercherà di ricomporre lo strappo all'interno del partito, mentre nella seconda votazione in mattinata il governo aveva ottenuto 350 sì, 193 no. Un dato politico in sostanza identico a ieri, con le stesse assenze Bersani, Letta, Cooper, Lobindi, Fassina e Epifani. Ma adesso all'assenza dei dissidenti DEM si unisce quella dell'opposizione, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Non siamo messi d'accordo con nessuno, abbiamo deciso di non partecipare al voto, poi se anche altri hanno deciso lo stesso, va bene così. E ad annunciare il referendum abrogativo anche Pippo Civati, che sembra sempre più fuori dal PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per il governo si apre un altro fronte complicato, perché la Consulta ha bocciato la riforma Fornero nella parte che riguarda la norma che ha sancito il blocco delle perequazioni 2012-2013, cioè il blocco dell'adeguamento al costo della vita sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il minimo INPS. Questo comporta quindi un buco da 5 miliardi e quindi problemi per i conti pubblici. Poi l'affronteremo questo argomento e così parleremo anche di occupazione, perché torna a calare secondo i dati Istat. Intanto l'INPS proprio oggi ha presentato i suoi dati e una rivoluzione in vista. 2 pensioni su 3 in Italia hanno un importo inferiore ai 750 euro al mese. Il valore medio degli assegni erogati è invece di circa 825 euro, mentre l'età media di chi ha scelto di andare in pensione di vecchiaia si è innalzata a quasi 66 anni. A fotografare il nostro sistema previdenziale sono gli ultimi dati diffusi dall'INPS, che oggi ha anche presentato il progetto La Mia Pensione. Da domani sul suo sito l'ente metterà gradualmente a disposizione degli iscritti un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico. Sarà una grande operazione di trasparenza, ha spiegato il presidente dell'INPS Tito Boeri. Questo è davvero quello che un grande ente previdenziale deve cercare di fare: informare i cittadini, dare tutti gli strumenti a loro disposizione per poter pianificare il proprio futuro. Boeri ha smentito che il costo dell'operazione sia di 50 milioni, come dicono invece i sindacati di base, che con la loro protesta oggi hanno bloccato a più riprese la presentazione dell'iniziativa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo argomento. Il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena Giampiero Pesenti e altri 7 ex manager della Franco Tosi di Legnano, vicino Milano, azienda che produce turbine, che erano imputati per omicidio colposo in relazione alla morte di 32 operai avvenuta per l'esposizione all'amianto. Il PM aveva chiesto di condannare a 6 anni di carcere il solo Pesenti, che ha 84 anni, per grave carenza in relazione ai dispositivi di sicurezza per il rischio di esposizione dall'amianto. E poi all'estero, Nepal ancora naturalmente in condizioni disastrose di assoluta emergenza, mentre rientrano i nostri connazionali, ma 3 sono ancora irreperibili. È salito a 5.844 vittime il bilancio del terremoto in Nepal, oltre 11.000 i feriti. Per il bilancio finale, dicono gli esperti, si temono 9.000 morti. Con danni agli edifici per circa 3 miliardi e mezzo di dollari. Nonostante con il passare delle ore si affievoliscano le speranze di trovare persone ancora in vita, si continua a scavare senza sosta tra le macerie. Oggi, a 5 giorni dal sisma, sono state estratte vive 3 donne e un ragazzo. A complicare i soccorsi, il maltempo e le difficoltà di un paese totalmente impreparato a fronteggiare un disastro di tale entità. In serata nella capitale Kathmandu è atteso l'aereo italiano con la task force di assistenza sanitaria e di supporto tecnico operativo inviata dal governo. E mentre resta fermo a 3 il numero degli italiani di cui non si hanno tuttora notizie, oggi i primi connazionali coinvolti nella tragedia sono rientrati in Italia. Stavamo scendendo, finivamo il trekking e così è stata. Ci siamo trovati nel momento giusto, al posto giusto, noi, i nostri amici purtroppo. Così. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un tribunale antiterrorismo pakistano ha condannato 10 persone all'ergastolo per l'attentato realizzato contro Malala. Vi ricordate la giovane pakistana, la ragazzina, premio Nobel per la pace. Malala fu ferita gravemente alla testa il 19 ottobre del 2012 da un commando di talebani che l'aggredirono mentre ritornava a casa da scuola a Mingora, nella valle dello Swat, su un pullman. E dalla Nigeria un'altra buona notizia: altre 150 donne, fra cui un centinaio di ragazze e anche decine di bambini, sono stati liberati dai militari nigeriani dalle grinfie del gruppo integralista di Boko Haram dopo le quasi 300 ritornate libere già 2 giorni fa, ve ne avevo parlato. Ma nel conflitto a fuoco nella foresta di Sambisa, dove l'esercito sta conducendo un attacco finale contro i terroristi islamici, alcune delle donne hanno sparato, probabilmente costrette, contro i soldati, e altre sono state usate come scudi. Il bilancio è di 12 donne e 7 soldati uccisi. E siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Si torna a parlare dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che tornerà ancora in aula. Motivi diversi ma stessa richiesta nello stesso giorno. Sia l'accusa sia la difesa di Alberto Stasi, condannato nel processo d'appello bis a 16 anni di carcere per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, hanno depositato il ricorso con cui chiedono alla Cassazione di cancellare il verdetto di secondo grado. La prima corte d'assise d'appello di Milano non ha riconosciuto all'ex studente bocconiano l'aggravante della crudeltà ma nemmeno le attenuanti. Inoltre ha disposto un risarcimento di 1 milione di euro ai genitori e al fratello di Chiara. Tutto da rifare secondo l'accusa e la difesa, ma diverse sono le motivazioni dei due ricorsi. Quello della difesa di 360 pagine punta a cancellare la condanna, mentre l'accusa punta a far riconoscere l'aggravante della crudeltà che era stata esclusa perché, scrive il PG milanese Laura Barbaini, non solo il movente esasperato è ricollegabile alle deviazioni sessuali dell'imputato, ma Stasi agì in modo spietato e insensibile. Il 17 dicembre 2009 Stasi aveva ottenuto una prima assoluzione confermata 2 anni dopo in secondo grado e poi azzerata dalla Cassazione. Ora la parola ritorna alla Suprema Corte per il verdetto finale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la notizia che arriva dal Corriere della Sera, c'è stato l'avvicendamento, è Luciano Fontana il nuovo direttore, lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di RCS che si è riunito a Milano. Fontana succede a Ferruccio De Bortoli, era già condirettore del quotidiano, si tratta quindi di una scelta all'insegna della continuità. Classe 1959, era il candidato sostenuto proprio da Ferruccio De Bortoli. E abbiamo, prima di chiudere, un flash con la nostra Laura Bettini, che è in Piazza Duomo a Milano, dove si inaugura, cioè la vigilia dell'Expo con il concerto di Bocelli. Laura. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo veramente alle battute iniziali. Paolo Bonolis, che è il conduttore di questa serata, forse lo sentite anche in sottofondo, sta scaldando un po' il pubblico in attesa del momento in cui inizia il concerto. Grandi applausi, la platea è piena, una platea ad inviti, però tutto il resto degli spettatori sono in piedi. Per quello che vedo sono tanti, noi siamo confinati come giornalisti in un angoletto, però diciamo che da quel che ho visto finora sono numerosi, ecco. Tanti applausi. Laura, fatti spazio e esci dall'angoletto anche perché ti si sente male, però ci ricolleghiamo dopo, quando la festa entra nel vivo. Allora, allora. Ciao Laura Bettini, a dopo. E per chiudere il calcio, il giudice sportivo della Serie A ha chiuso per 2 turni la curva sud della Juventus dopo l'esplosione di una bomba carta nel settore dei tifosi torinisti durante il derby della Mole. E poi sono ore cruciali queste invece per il Milan, dopo il vertice di Berlusconi con il finanziere thailandese Mr. B. Il patron Berlusconi riflette ad Arcole adesso sull'offerta per l'acquisto. Vedo intanto i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effettonote e anche gli sms al 349-238-6666 sulle vostre considerazioni rispetto all'Expo. Per esempio, scrive questo ascoltatore, illusione e speculazione o realtà e progresso? L'Expo 2015. C'è un'eccezione per stasera, se volete, visto che andiamo avanti fino alle 23, potete anche telefonare all'800 24 0024, numero verde. Adesso viabilità. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sto guardando uno dei messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giorgio dice: sono ottimista rispetto all'Expo, in ogni occasione di questo tipo qualcosa si poteva fare meglio, qualcosa forse risulterà poi fatta meglio del previsto, anche perché ciò dipenderà non solo dagli organizzatori ma anche da coloro che a vario titolo interverranno anche come semplici visitatori. Questo, dice, ecco, forse abbiamo perso un'altra occasione per migliorare il modo in cui vengono fatte le cose nel pubblico e nel privato. Continueremo con i vostri messaggi, continueremo fino alle 23, tra poco ci occuperemo di politica, però se avete acceso la radio in questo momento vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Expo, vigilia di tensione, perché ci sono anche black bloc in piazza a Milano, vandalismi, arresti oggi, però Renzi dice facciamo ripartire l'Italia. La Consulta boccia il blocco delle pensioni alte, quindi ci sarà un buco da 5 miliardi, l'allarme per i conti pubblici. Palazzo Chigi però dice troveremo la soluzione. Sì alla fiducia sull'Italia, con la terza fiducia, oggi le opposizioni sull'Aventino, cioè si sono ritirate fuori dall'aula, la maggioranza resta sola in aula, lunedì ci sarà il voto finale. Primo maggio, domani, non solo il giorno dell'Expo, anche il primo maggio con poco lavoro, però, perché dai dati Istat la disoccupazione torna a salire. Miracolo in Nepal, quindicenne estratto vivo dopo 5 giorni, il bilancio sale a 5.825 morti, in arrivo gli aiuti italiani. E poi giustizia per Malala, 10 ergastoli e attentatori della ragazzina quindicenne pakistana, ma i killer restano ancora latitanti. E poi ore decisive per il Milan, Berlusconi riflette sulla proposta di Mr. B. Parliamo allora dell'Italia, con il cammino della riforma della legge elettorale che a quanto pare procede, perché il governo oggi ha incassato la seconda e la terza fiducia. Lunedì, come ho detto, ci sarà poi il voto finale. Dopo gli scontri di martedì, vi ricordate, abbiamo sentito le proteste in aula mentre la ministra Boschi annunciava la decisione di Renzi di porre la fiducia. Poi il primo sì alla fiducia di ieri. Secondo i dati forniti dal PD, ieri erano 38, diciamo, i dissidenti della minoranza, ora si dice sono 37 gli assenti per motivi politiche, insomma tutti aderenti alla minoranza del partito, fra questi Bersani, Letta, Cuperlo, Fassina e anche Rosi Bindi, che avevamo qui ieri Effetto Notte. Le opposizioni non hanno partecipato al voto, come si diceva, e si stanno organizzando per spostare fuori dalle aule parlamentari la battaglia contro la riforma elettorale. Le opposizioni, poi vedremo come. Intanto saluto Michele Ainis, buonasera Michele. Buonasera. Costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università Roma 3, editorialista del Corriere della Sera, e c'è anche l'onorevole Ettore Rosato. Buonasera Rosato. Buonasera. Buonasera. Deputato, vicepresidente vicario del PD. Ora, Michele Ainis, leggevo il tuo editoriale oggi sul Corriere della Sera, dicevi che più che un voto di fiducia è un atto di fede questo sull'Italicum. Perché? Ma sì, nel senso che il voto di fiducia, che è una così un'evidente forzatura, un prendere o lasciare, e poi si divide la platea dei congiurati, da dove c'è il giuramento, non so come si possa dire, tra fedeli e infedeli. Io devo dire, insomma, io condivido l'impianto dell'Italicum, mi piace il doppio turno perché il premio di maggioranza viene consegnato in questo caso agli elettori, però avverto una serie di criticità che sono anche criticità, credo, di livello costituzionale, che sono dei possibili vizi di legittimità costituzionale che si potevano sanare. Posto che non abbiamo un'elezione domattina, almeno che io sappia, e quindi insomma in questo caso si è credo voluto conseguire il risultato politico di dimostrare di poter raggiungere il risultato, ecco. A questo proposito vorrei far sentire anche all'onorevole Rosato un breve passaggio di quello che ha detto ieri Rosi Bindi qui a Effetto Notte. Fra le varie cose ha detto anche che effettivamente questo è stato un atto di forza improprio, l'ha definito la fiducia, ha detto che forse potrebbe essere che le elezioni sono più vicine. Sentiamo. Le elezioni secondo lei sono più vicine? Ma guardi, qualcuno lo dice e forse non ha torto, perché non c'era proprio la fretta di avere una legge elettorale prima, tra l'altro, che si siano completate le riforme della Costituzione. Quindi è un'arma che Renzi vuol tenersi in mano per avere le mani libere, chiaramente. È così rosato? Ma assolutamente no. Guardi, noi siamo negli ultimi 50 anni di leggi elettorali, non è che ne abbiamo fatte tante, no? Direi tre, questa è la terza. È un'arma che mettiamo a disposizione dei cittadini. Questo governo, ma direi questa legislatura, perché valeva anche per il governo Letta, sono nate con l'impegno di fare le riforme. E ricordiamo tutti i momenti con il presidente, con le drammatici dell'elezione del Presidente della Repubblica, con l'elezione del primo del Presidente Napolitano, sulle macerie di un disastro che abbiamo fatto, e il suo intervento concentrato tutto sulle riforme, così come è accaduto nel momento che si è insediato il governo Renzi, un governo che si è impegnato a fare la riforma della Costituzione e la legge elettorale. Oggi stiamo per approvare la legge elettorale, che è perfettibile, è sempre perfettibile. Io non vi trovo difetti di costituzionalità, ma riconosco che è una legge perfettibile, e soprattutto ci sono punti di vista e opzioni diverse. Noi ne abbiamo scelte alcune, abbiamo fatto un ragionamento e soprattutto abbiamo fatto un lungo e difficilissimo lavoro di mediazione per ottenere questo testo, in un Senato che, ricordo, non ha una maggioranza di centro-sinistra, e quindi siamo dovuti arrivare a dei compromessi. Questi compromessi e queste mediazioni hanno prodotto però un buon testo che, come veniva ricordato prima, ha il premio di maggioranza, consente una semplificazione del panorama politico, risolve un problema che nel nostro paese c'è sempre stato, cioè quelle delle coalizioni ingovernabili che hanno sempre fatto cadere i nostri governi, e oggi noi abbiamo una buona legge elettorale. Io penso che sia un risultato importante, lo vedremo lunedì quando, sono convinto, lo approveremo, e possiamo dire di poter passare a fare il resto, non per andare a elezioni, perché non c'è nessuna intenzione di andare a elezioni, anzi abbiamo la consapevolezza di dover fare molte altre cose, a cominciare proprio dalla riforma della Costituzione. Però Michele Ainis faceva notare, sempre nel suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera, Michele, che con questa legge elettorale, con l'Italicum, si elegge praticamente il Presidente del Consiglio in modo diretto? Come mai? Beh, perché quando si va al ballottaggio, il ballottaggio è fra due partiti, non fra due coalizioni. Questi due partiti esprimono ovviamente un leader, assisteremo a dei faccia a faccia televisivi, uno dei due leader sarà quello che vincerà il premio, che si troverà ad avere il controllo con il 55% della unica Camera elettiva, ammesso che la riforma costituzionale venga poi battezzata. E quindi è un'elezione diretta, molto di più che in passato. Quando nel 2001 Berlusconi vince una delle sue elezioni e riceve il mandato che era scontato, era obbligato da Ciampi, lui disse, proprio per rimarcare il fatto che l'investitura gli derivava dai cittadini e non dal Presidente della Repubblica, il Presidente Ciampi mi ha dato il mandato di formare un governo conformemente al voto popolare. Se questo valeva allora, varrà molto di più in futuro con questo sistema elettorale. Quindi c'è una modifica surrettizia, nel senso non dichiarata, della forma di governo, che invece è una forma di governo parlamentare, a leggere la Costituzione vigente. E questo, per carità, è una vecchia, una volta ho contato una trentina di prassi costituzionali, insomma è una vecchia storia italiana. Noi in genere le regole preferiamo più che modificarle o anche apertamente violarle, fraudolentemente aggirarle. Vediamo se l'onorevole Rosato è d'accordo con questa interpretazione, comunque, del fatto che con l'Italicum si arriva praticamente a eleggere in modo diretto il Presidente del Consiglio? D'accordo. Guardi, l'interpretazione è molto dotta e io non la contesto sotto il punto del diritto. Commento semplicemente che noi abbiamo applicato la Costituzione, perché la Costituzione, se voleva un'altra cosa, lo precisava. noi applicando la Costituzione facciamo una legge elettorale che è comprensibile per i nostri concittadini. La sera del ballottaggio, se ci sarà il ballottaggio, gli italiani sapranno esattamente chi ha vinto, a chi hanno dato la responsabilità del governo del paese, dopodiché chi ha vinto dovrà saper conquistare la fiducia del Parlamento, nella legge elettorale così come impostata potrà avere, costruire un governo anche più ampio di quello previsto dalla semplice elezione, perché dal risultato elettorale, perché naturalmente il premio alla lista garantisce la governabilità con i voti che vengono, con il premio di maggioranza che viene garantito alla lista, ma non nega che ci possa essere un allargamento del governo anche a liste minori che comunque saranno presenti in Parlamento. Quindi il sistema parlamentare viene tutelato in tutto, nella forma e nella sostanza. In più c'è un principio che la nostra Costituzione ha sempre previsto e che noi non abbiamo neanche toccato nella riforma della Costituzione, che comunque rende tutti i bilanciamenti e le garanzie del caso, perché perfino, cosa che non accade negli altri paesi, continuano i ministri a essere nominati o revocati dal Presidente della Repubblica, quindi non è che abbiamo forzato le regole o siamo andati verso il sistema presidenziale, cosa che potevamo fare e non abbiamo voluto fare consapevolmente. Rosato, mi dica un'altra cosa brevemente, lunedì c'è il voto finale, ci sarà il voto segreto oppure no? Avete deciso? Guardi, sicuramente il PD e anche i partiti, tutto il PD, nel senso che questo è un impegno che hanno assunto tutti i colleghi del PD, anche quelli della minoranza, anche quelli che non hanno partecipato al voto di fiducia, non lo chiederà il voto segreto, così come nessun partito di maggioranza. È nelle mani delle opposizioni. Se vorranno chiedere il voto segreto, voteremo a voto segreto con la serenità d'animo di aver costruito un consenso nella maggioranza che ci garantirà l'approvazione della legge comune. Michele Ainis, per chiudere, adesso sta crescendo un fronte pro referendum lanciato dal Movimento 5 Stelle, poi si sono uniti Forza Italia e Selci, questo asse per chiedere prima o poi, cioè, questo referendum di abrogazione se dovesse passare l'Italia, come dice che è una cosa fattibile, come la leggi? Sì, noi abbiamo votato o anche non votato a vari referendum elettorali, quindi questo sarebbe l'ultimo di una sequela abbastanza lunga. Per la verità l'ultimo fu il referendum Cursetta ed ebbe la più bassa partecipazione al voto nella storia dei referendum. Questo non è un buon viatico per il prossimo, però mi rendo conto che la nostra Costituzione poi non dispensa molte armi da usare per un'opposizione, diciamo, di tipo politico a delle scelte politiche da parte del Parlamento, e alla fine l'unica arma è questa. Bene, io ringrazio intanto, sarà vedere interessante cosa succede lunedì, se queste opposizioni davvero si organizzeranno la battaglia contro la legge di riforma elettorale fuori dalle aule del Parlamento. Intanto grazie Michele Ainis, grazie onorevole Rosato. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Adesso invece abbiamo raggiunto Raffaele Cantone, che saluto e ringrazio per la disponibilità, visto che saranno momenti in cui sarà molto preso, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Buonasera Cantone. Buonasera a lei. Senta, dopo gli scandali legati agli appalti che hanno frenato ulteriormente i lavori già in ritardo di Expo, Renzi si era affidato a lei per vigilare sul buon esito dei lavori. Domani si inizia, come si sente Cantone? Ma un po' di emozione sicuramente, perché ricordo quando questa avventura è cominciata, e devo dire che c'era anche grande scetticismo che si sarebbe arrivati al primo maggio, quindi tutto sommato un momento di un po' di emozione e anche un po' di soddisfazione di esserci arrivati. Perché effettivamente con tutto quello che è successo e con i ritardi al di là delle inchieste che ci sono state, si è temuto di non farcela, no? Si sono accelerati molto i tempi verso la fine e insomma tutto è andato liscio anche da un punto di vista adesso della pulizia, Cantone. Noi ce l'abbiamo messo tutto perché tutto andasse liscio dal punto di vista della polizia, speriamo di esserci riusciti, abbiamo fatto i controlli migliori possibili che potevamo fare, abbiamo controllato tutti gli appalti, tutti gli atti che ci sono stati sottoposti, sicuramente abbiamo messo il massimo impegno e speriamo che siamo riusciti anche a ottenere i risultati. Cioè, il risultato principale è che la macchina è il lavoro. Abbiamo tanti Expo, di tanti funzionari, dirigenti, del commissario Sala. Cantone, l'ho sentita male nell'ultimo pezzettino, sentivo che era un auspicio il suo dopo tanta fatica, dopo tanti lavori. Sì, dopo tanta fatica, dopo tanti lavori, ovviamente non solo grazie ai nostri controlli, ma anche grazie al lavoro che è stato fatto dai funzionari, dai dirigenti, dal commissario Sala, che ovviamente sono loro che poi guidavano la macchina. Noi eravamo un po' i vigili urbani, ma erano loro che guidavano la macchina. Quindi insomma, però grazie anche ai vigili urbani siamo arrivati fin qui e domani finalmente si apre questa esposizione universale tanto attesa. Grazie Raffaele Cantone, grazie dottor Cantone. Buona serata. Grazie, buona serata e buon inizio anche con l'Expo. Direi adesso di prenderci un pochino di ricreazione, tanto abbiamo fino alle 23, però volevo intanto vedere se... gli altri messaggi, intanto stanno arrivando le telefonate all'800 24 00 24, numero verde se volete fare i vostri commenti su quelle che sono le vostre aspettative, le vostre riflessioni su questo grande evento che ci pone in vetrina rispetto al mondo, Milano ma anche l'Italia. Maurizio dice: bella roba sto Expo, neanche finiti i lavori, sai quanta ricchezza ci porterà tutti, siamo la frutta da un po', tutti milioni di euro buttati alla faccia nostra. Queste sono le diverse posizioni, naturalmente Stefano può non essere perfetto come tutte le cose umane, ma sono ottimista. Buon weekend a te, grazie alle persone che scrivono, eccetera. Poi Gilles: ottimismo della volontà e pessimismo della ragione. La ragione dice: sperpero di denaro pubblico per arricchire qualcuno, effetti collaterali, figure mondiali, dalle traduzioni sbagliate, ai siti internet ridicoli, fino alla tipica disorganizzazione italica che farà inaugurare un'opera non ancora finita. Ridateci gli austriaci e chiunque altro. Qualcuno fa anche dell'ironia, ma ci sta, ecco, diciamo che insomma si è arrivati con fatica a questo momento, ci si è arrivati, dicevo, un momento di ricreazione e poi di nuovo con i vostri messaggi, con altri temi e con Expo anche fino alle 23. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia? Su con Sustemium Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano e sempre con me i vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ho chiesto, visto che andremo avanti sino alle 23 per accogliere, per raccogliere la vigilia, diciamo, dell'Expo che inizia domani, che si apre domani. Già è iniziato, vedo il concerto in Piazza Duomo a Milano, che è il primo vero evento che apre. Buonasera. Esposizione intanto, universale. Possiamo subito riconoscere il mondo visione così. Subito pronti via. Pensavo che entrassi con la marcia trionfale della Ida. Invece non l'ho sentito. No, beh, giustamente con quella c'è Antonella Clerici, Paolo Bonolis, prima c'era Bocelli che aveva cantato la prima canzone, poi magari ci ricolleghiamo per sentire un po' di musica. Vedo che i vostri commenti sono anche sulla politica. Vi chiedo soprattutto stasera quali sono le vostre aspettative rispetto a Expo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli SMS al 349-238-6666. Se volete, eccezionalmente potete chiamare anche il numero verde stasera 800 24 00 24. Filippo Lei si dice: da quanto tempo il Parlamento e i partiti sono fermi sulla legge elettorale? Come si fa a dire che si può aspettare ancora, a proposito appunto di rimandare? Adesso vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono le notizie più importanti e poi andiamo invece sulla questione lavoro e anche questa cosa del buco da 5 miliardi. Italicum, il governo incassa il sì anche sulla terza fiducia, le opposizioni per protestare vanno fuori dall'aula e poi lunedì ci sarà il voto finale. Expo, festa della vigilia in Piazza Duomo con Bocelli, ma gli anarchici oggi hanno un po' rovinato l'attesa con l'assalto a Manpower, alle vetrine imbrattate in centro a Milano. Pensioni, la consulta boccia il blocco delle pensioni della riforma Fornero, buco da 5 miliardi in due anni, problema per i conti pubblici, e torna intanto a crescere anche la disoccupazione. Nigeria, l'esercito libera dalle grinfie di Boko Haram altre 150 donne, fra cui un centinaio di ragazze e decine di bambini. E per il calcio, Inzaghi resta per il momento il tecnico del Milan, ma c'è incertezza sul futuro rossonero dopo il vertice con Mr. B. Adesso invece occupiamoci con Alberto Rioli, ciao Alberto, vice direttore del Sole 24 Ore, dei dati sull'occupazione, o meglio sulla disoccupazione, perché secondo quanto riporta l'Istat, dopo i cali di dicembre e di gennaio, a marzo la disoccupazione è risalita, il tasso è al 13%, la disoccupazione giovanile a marzo risale oltre il 43%, quindi pare, secondo questi dati Istat, che l'entrata in vigore del Jobs Act sembrano aver avuto effetti positivi sul tasso di disoccupazione. Alberto Oriolo, è troppo presto per dirlo. Forse la seconda che hai detto, come direbbero, è ancora effettivamente un po' presto per dirlo. C'è qualcosa che sta cambiando sul mercato del lavoro, purtroppo questi dati Istat riferiti a marzo sono brutti obiettivamente. In un mese si sono persi 59.000 posti di lavoro tra gli occupati e sono aumentati di 52.000 i disoccupati, il tasso ormai al 13%, come dicevi tu. Vanno un po' messi insieme a quel dato che era stato annunciato con un certo entusiasmo, diciamo così, dal Ministero del Lavoro il 25 aprile sul saldo positivo tra contratti nuovi e contratti cessati di quasi 92.000 unità, e questo dava un segnale di vivacità sul mercato del lavoro. In realtà qualcosa sta succedendo, c'è un piccolo scongelamento tra la parte che prima era cosiddetta precaria e a tempo, diciamo, verso i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutte le crescenti creati dal Jobs Act, che è in vigore appunto dal 7 marzo, però ancora la tendenza a questo riposizionamento dentro il mercato del lavoro è molto lento, e bisogna dire che le due rilevazioni considerano un panel di riferimento molto diverso. Occupati e disoccupati sono tutti lavoratori, indipendenti, autonomi, comprese le partite IVA e quant'altro. Invece le cessazioni e le attivazioni che vengono censite dal Ministero del Lavoro considerano praticamente solo il lavoro dipendente in senso stretto, non considerano il pubblico impiego, non considerano il lavoro domestico, non considerano il lavoro interinale, non considerano quello autonomo. E in questo momento probabilmente c'è una fase di assestamento, molte partite IVA sono state chiuse e sono in parte confluite nel sommerso, oppure hanno perso proprio il lavoro, oppure in altra parte sono entrate nel mondo dei contratti, dei nuovi contratti stabiliti dal Jobs Act, e quindi è in atto questo travaso e ancora è un po' difficile stabilire una vera e propria tendenza. Si capisce che c'è uno scongelamento che in parte è positivo. Vogliamo sentire qualche nota, giusto per distrarci, di Bocelli che sta cantando in Piazza Duomo per l'Expo? Finale abbiamo sentito, grazie, trionfale. Senti, questo per distrarci, perché poi invece dobbiamo passare un'altra grana, quella delle pensioni, sì, no? Con la Consulta che ha bocciato il blocco degli adeguamenti 2012-2013, e qui si apre, se si devono restituire questi soldi a chi doveva percepire qualche soldo in più nelle pensioni, si apre per secondo i conti un buco da 5 miliardi per i conti pubblici? Questa è una vera doccia fredda per il governo, che già era alle prese con un tesoretto più o meno virtuale di 1,6 miliardi o giù di lì, che già era parecchio contestato non esserci, eccetera. Adesso dovrà trovare per l'appunto 1,8 miliardi per la parte che riguarda il 2012 e 3 miliardi per il 2013, in due anni insomma sono 5 miliardi. Si tratta della bocciatura della Consulta di una parte della legge Fornero sulle pensioni, che per la verità era stata fortemente voluta da Monti, dal Presidente del Consiglio in persona, che bloccava l'adeguamento al costo della vita per le pensioni che fossero tre volte il trattamento minimo, cioè quelle superiori a 1.400 euro lordi al mese. E sono grosso modo 5,5 milioni, quasi 6 milioni di persone interessate a questo tipo di adeguamento, il 36% mi pare del totale e degli assegni in circolazione. Quindi è una cosa molto grossa, chiaramente restituire le somme illecitamente bloccate secondo la Consulta costa molto, e poi costa anche in modo ravvicinato, perché ora bisognerà vedere se il governo sarà in grado di trovare un sistema di rateazione che possa diluire gli impatti di cassa che sono totalmente non previsti da questo quadro macroeconomico. Teniamo conto che l'Europa ci aveva già abbonato parecchio sul quadro macroeconomico, dandoci un po' di sconto, un po' di benevolenza sul deficit e sul debito, e questa cosa arriva come una tegola in testa al governo Renzi. Obiettivamente non sarà facile, come peraltro dice una nota informale di Palazzo Chigi, trovare una soluzione, anche se ovviamente il governo dovrà trovarla. L'ha trovata. Grazie Alberto Rioli. Grazie. Ciao Alberto. A voi, buonanotte. Ciao. Vedo intanto che, allora, per quanto riguarda il terremoto in Nepal, è atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani che sono di ritorno, ne mancano ancora tre all'appello. E poi per l'Expo invece sono arrivati in piazza i VIP politici, anche la moglie di Renzi. Renzi è arrivato a Milano naturalmente per la vigilia di Expo, poi domani per l'apertura. Abbiamo sentito prima il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, che era molto emozionato. Adesso leggo che il commissario unico Sala dice: una cosa ben fatta, sono molto contento. Insomma, siamo proprio agli sgoccioli, eh? Ne ne parleremo tra pochissimo ancora di Expo e poi andiamo avanti sino alle 23. I vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al numero verde se volete stasera, eccezionalmente 800-24-0024, numero verde quindi gratuito e anche ecologico. Viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Ci siamo. Ci siamo. Expo apri i battenti. E Radio 24 c'è. Radio 24 c'è. Con una programmazione tutta dedicata all'evento più atteso dell'anno. Dal 30 aprile al 3 maggio vivremo insieme tutta l'emozione di Expo. Appuntamenti speciali, collegamenti, dirette, interviste e la redazione sempre presente sul campo. Expo sta arrivando. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. E tu? La passione si sente. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, vedo i vostri messaggi al 349-238-6666. Lino da Modena dice: non c'è da sperare né da criticare sull'Expo, c'è da lavorare. L'Expo nel bene e nel male ha fatto e fa lavorare questi poveri giovani sfruttati. Non hanno forse capito che lavoro non vuol dire più stipendio ma opportunità, dice, che corrano, secondo questo ascoltatore. Invece un'altra ascoltatrice dice: Expo ne posso fare tranquillamente a meno. Poi per le notizie più importanti c'è naturalmente la vigilia dell'Expo, l'abbiamo detto, la consulta che boccia il blocco delle pensioni alte, c'è questo rischio di un buco da 5 miliardi, ne abbiamo parlato poco fa. Sull'Italicum la maggioranza resta da sola in aula, l'opposizione sull'Aventino, però incassa il governo la terza fiducia. Lunedì ci sarà il voto finale. E adesso direi sì, parliamo di Expo. E ne parliamo con Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Roberta, buonasera, un saluto agli ascoltatori. È stato più volte, diciamo, in questo enorme parco tematico distribuito su spazi e allestimenti diversi. Il tema, abbiamo detto, è nutrire il pianeta, energia per la vita, questo è il titolo, è piuttosto roboante, quindi cibo ma non solo cibo. Ogni paese affronterà poi questo tema un po' a modo proprio, creando attrazioni, eventi per i visitatori. Gigi, tu che però l'hai visto, che cosa hai visto? Ma guarda, stavo guardando in questi istanti in realtà la gallery che si vede su expo2015.org e stavo riflettendo sul fatto che l'ultima volta sono andato al cantiere, ormai sono 20 giorni fa. Devo dire che se c'è una cosa che rimane è l'effetto di questa costruzione, cioè tutto quanto in pratica fino alla fine dell'estate, quindi insomma, anzi o meglio alla fine delle vacanze estive classiche, quindi settembre, era in nulla. Poi improvvisamente è partita questa costruzione davvero complessa, poi insomma se ne può discutere, disomogenea, ma di sicuro imponente. Ecco, ancora 20 giorni fa c'era qualcosa di molto diverso da quello che si vede in questo momento negli ultimi scatti. Poi naturalmente domani mattina racconteremo, vedremo con i nostri occhi e racconteremo ciò che vediamo. Questo per dire che il primo effetto che c'è di questo Expo è della grande corsa. E anche, devo dire, del grande entusiasmo, perché questo è quello che abbiamo riscontrato nei cantieri, tra i lavoratori. Questo naturalmente non significa che non ci fossero una quantità di problemi, certo, enormi, che non ci fossero. Anche Cantone poco fa, è stata una grande fatica, però ci sono però lavoratori il senso che di partecipazione ad un grande progetto. Questo ore, devo dire, sì, tante ore, anche perché, e l'ha detto anche Sala stasera, peraltro, dopo il concerto lui torna in cantiere, perché ancora è incompleto, e questo è un aspetto, è incompleto. Ma nello stesso tempo appare decisamente spettacolare, e questo, devo dire, lo appariva già una ventina di giorni fa. Allora, abbiamo detto che ci sono quanti paesi grosso modo? Ci sono 54 paesi ufficiali, in realtà la rappresentanza è molto più ampia, perché poi ci sono i paesi che sono raccolti nei cluster e così via. Di fatto c'è veramente una rappresentanza mondiale in termini di paesi, in termini di organizzazioni. Non dimentichiamo, ci sono le organizzazioni non governative molto presenti. La verità è che a Expo ci vogliono andare tutti, e questo è sicuramente uno degli aspetti. I pro Expo, i contra Expo sono uno accanto all'altro. Quelli per esempio dello slow food, del fast food, e questo è anche uno degli aspetti un po' per alcuni discutibile, però questa è la realtà evidentemente dello spazio Expo, in cui accanto a McDonald's c'è slow food e così via, i contadini delle Ande. Ecco, Come dicevamo, tanti aspetti legati al cibo, sì. Ognuno con le tradizioni di ogni nazione diversa, quindi c'è anche naturalmente McDonald's. Ci sono quanti visitatori più o meno sono attesi? Ci sono previsioni? Allora, chiaramente ormai possiamo spaccare il tema in due parti: le aspettative, i famosi 20 milioni. E 20 milioni basati sono su tanti, sono tanti, sono tantissimi, e nello stesso tempo sono, come è ovvio, spalmati su un percorso di sei mesi. Sono in una città che comunque sta godendo di una cassa di risonanza enorme. Mi viene in mente banalmente il titolo di 7 settimane fa, New York Times, Milano, una delle città che è necessario visitare nel 2015. Se lo dice il New York Times, sì, da milanese possiamo solo essere d'accordo, ma diciamocela, insomma. Ma queste cose si notano e fanno parte del grande effetto Expo. Quindi 20 milioni di attese, domani si comincerà a vedere. In realtà si vedrà un assaggio, perché lo ricordo, alle 10 del mattino si aprono i tornelli e a quel punto si cominceranno a distinguere, diciamo, i biglietti un po' così presunti o attesi dalle presenze reali, anche se è ovvio la grande aspettativa si concentra sul periodo delle ferie, perché poi l'Europa va a scuola in questo periodo, insomma dovrebbe essere un crescendo con una grande esplosione nell'estate. Si vedrà. Devo dire tra l'altro che ho lanciato poche volte stasera eccezionalmente il numero verde, chiamano sulla legge elettorale, ma su l'Expo per il momento ci sono messaggi. Evidentemente anche gli italiani, i milanesi, ma gli italiani, visto che ci ascoltano in tutta Italia, ancora forse hanno difficoltà a capire la dimensione, la portata di questo evento. Forse deve iniziare, bisogna rompere il ghiaccio, vedere cosa succede, sentirne parlare più spesso di qualcuno che c'è stato, del passaparola, e quindi rendersi conto poi di che cosa sia. Sì, nello stesso tempo penso che facciano bene il nostro ascoltatore a concentrarsi di più sulla legge elettorale nel momento in cui devono avere delle informazioni. Cioè, questo è un grande show, non dimentichiamolo. Insomma, non è che l'Expo in sé determinerà, anche se ormai è un mantra un po' ricorrente, no? Questa Expo determinerà il futuro del nostro paese. È vero nella misura in cui ormai le grandi esposizioni, penso ai giochi olimpici soprattutto, determinano, contribuiscono a fare quell'effetto volano o meno, pensiamo al caso greco, di un paese. Dopodiché l'aspettativa che un paese, insomma, strutturato come l'Italia non dovrebbe tutto sommato avere un'esigenza da Expo. Sicuramente c'è una grossa carica intorno a questo progetto, evidentemente molto più forte tra chi lo vede, tra chi ci sta lavorando, insomma tra chi magari a Milano stesso, no? Perché anche i milanesi lo stanno scoprendo. Beh, non è un posto anche un po' dove... già dal traffico di oggi l'ho scoperto. Esattamente. Non voglio immaginare. Ma non è un posto dove uno passa per sbaglio, nel senso che forse gli ascoltatori lo sanno ormai bene, soprattutto quelli che fanno la 4 e la 8, quindi le due autostrade che arrivano a Milano. In quello spicchio di Milano è stato costruito lo spazio. A nord-ovest possiamo dire. A nord-ovest, assolutamente, sono 1.100.000 metri quadrati, ecco, è lì. Quindi da domani si passerà da questa distanza, magari al desiderio, con poche fermate di metropolitana, di andarlo a vedere. Tra l'altro c'è anche la dimensione interattiva, no, dell'Expo, perché certo. A proposito di cibo si potranno assaggiare i piatti, i cibi tradizionali dei vari paesi, c'è anche questa possibilità. Sì, c'è veramente di tutto. Allora mi viene in mente per esempio gli amici vicini svizzeri che costruiscono 4 torri e invitano i visitatori a prendere materialmente quello che è contenuto nelle 4 torri. Nelle 4 torri che cosa c'è? Ci sono delle mele, quindi non c'è il formaggio che si aspetta, per esempio, un orologio. E invece c'è il caffè, per esempio, perché gli svizzeri raccontano attraverso le multinazionali dell'alimentare, quindi non i piccoli produttori, ti raccontano di essere diventati i più grandi distributori di caffè al mondo, perché questo è anche l'alimentazione, quindi i grandi mercati e le grandi multinazionali. Dall'altra parte ci sarà una quasi illimitata possibilità di accesso ai prodotti alimentari dei diversi paesi, e sicuramente questo sarà una parte della storia di questa esposizione universale, perché non dimentichiamolo, è fondamentalmente anche un luogo di dibattito, ma dove, diciamo, L'auspicio è che ci vadano le famiglie, e che ci vadano i giovani, e che la gente trascorra delle giornate e delle serate, perché ricordiamolo, è aperto anche la sera. Naturalmente, grazie allora Gigi Donelli, ci ha dato questo quadro entusiasta di Expo che inizia. Ma entusiasta, sì, nel senso che, ripeto, credo che ci sia intorno a questo progetto, che è stato, ricordiamolo, deciso circa 9 anni fa, poi ci sono state un'infinità di polemiche. Ecco, adesso c'è, domani si apre, direi che è tempo magari di andarlo a vedere. Grazie Gigi Donelli, noi ci scopriamo tra poco. Fondi, BOT, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito. Prima di investire, meglio essere informati. Giovedì mattina, all'interno di Cuore e Denari, non perdete Investire Informati. Investire Informati. Il nuovo appuntamento per conoscere i principali strumenti finanziari e orientarsi nel mondo del risparmio e dell'investimento. Investire Informati. Ogni giovedì alle 11.45. Solo su Radio 24. Sono le 22. GR 24, il sole 24 ore. Ed ecco le notizie più importanti di oggi con l'Expo, che ormai agli sgoccioli, già è iniziata la festa in Piazza Duomo con il concerto di Bocelli. Oggi gli anarchici hanno già protestato imbrattando vetrine in centro a Milano, l'assalto a Manpower. E poi l'Italicum, il governo incassa il sì anche sulla terza fiducia, le opposizioni per protestare sono andate fuori dall'aula, però lunedì si aspetta il voto finale. Pensioni, la consulta boccia il blocco delle pensioni della riforma Fornero, quindi ci sarà un buco da 5 miliardi, si prevede, in 2 anni per i conti pubblici, e torna a crescere la disoccupazione in Nigeria. La buona notizia è che l'esercito libera dalle grinfie di Boko Haram altre 150 donne, fra cui un centinaio di ragazze e decine di bambini. E per il calcio, Inzaghi per ora resta il tecnico di Milan, del Milan, ma c'è incertezza sul futuro rossonero dopo il vertice con Mr. B. Per la Juve, festa senza curva, 2 giornate di squalifica per gli scontri al derby. E ora, lo sapete, vi ho avvertito che siamo fino alle 23 insieme, perché è una puntata speciale. Siamo naturalmente alla vigilia dell'Expo. Domani Radio 24, un po' con tutto il palinsesto, si dedicherà all'inizio della grande esposizione universale. Quindi stasera restiamo insieme ancora un po', anche con le vostre opinioni al 349-238-6666 per i messaggi sull'Expo, le vostre aspettative, le vostre opinioni, o sulla pagina Facebook di Effetto Note. Se volete, anche il numero verde 800 24 00 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E quindi siamo insieme anche per questa seconda ora sino alle 23. Stavo vedendo che è iniziato il concerto in Mondovisione in Piazza Duomo, naturalmente con Bocelli, ne abbiamo sentito giusto l'acuto finale prima, ma poi continuerà, adesso c'è la pausa. E la notizia è che ci sono vari VIP, però c'è la moglie di Renzi ma non c'è Renzi, chissà dove è andato esattamente. Doveva essere anche la festa di Armani questa sera, comunque è a Milano perché domani non può naturalmente mancare all'inaugurazione dell'Expo 2015. I vostri messaggi al 349-238-6666 su quello che rappresenta per voi l'Expo a Milano e per l'Italia, e anche sulla pagina Facebook di Effetto Note. C'è anche il numero verde, se volete, 800 24 00 24. C'è Francesca da Brugherio. Francesca, buonasera dottoressa Giordano. Buonasera. Allora, l'Expo è qualcosa di grandioso, qualcosa che non riesco neanche a immaginare, ecco. Però mi sembra che la Valle di Susa, per l'Italia, no? Perché qua si parla di grandi paesi, grandi cose, mi pare non sia rappresentata. Se io, piccolina come sono, no? Io sono una casalinga qua. Valle di Susa in Piemonte. In Piemonte, ecco. Del mio paese, del mio piccolissimo paese, 1300 anime, no? Valle, sì, dove sono nata, e volessi esporre qualcosa all'Expo, metterei i canestrelli, che sono dei dolci favolosi, sono finiti anche nel gusto del Piemonte, no? Proprio, sono proprio tipici di Vaie. In più metterei l'acqua del mio paese, perché l'Expo, c'è anche, si dice nutrire il pianeta, nutrire e dissetare. Chiaro. L'acqua del mio paese è leggerissima e buona ed è una cosa straordinaria, è conosciuta in tutta la valle, ma anche da Torino, eccetera. Caspita, Francesca, ma diciamo che probabilmente i privati quasi sicuramente non possono esporre, però almeno hai ricordato questa sera le, diciamo, le eccellenze del tuo paese, della tua zona. Francesca, andrai a vederlo l'Expo? Penso di sì, andrò con i miei figli, con mio marito, sicuramente andrò, come perdere un'occasione così? Più o meno è programmato da qui al 31 ottobre, quando potresti andarci? No, ma più avanti, non adesso, più avanti, magari lascio passare un mesetto, due, e intanto finiscono quello che devono finire, perché mi pare non sia finito ancora tutto, no? Non tutto, però tanti stanno facendo un po' il tuo ragionamento, come segue per le partenze intelligenti, no? Quando si parte per le vacanze, dicono no, non partiamo in quell'ora che partono tutti, tu stai dicendo ma aspetto un mese, due, poi lascio, vado anch'io. Lascio passare un po' e vedo un pochino grosso come sono le cose e poi ci andrò, perché ho delle amiche anche della Valsusa che vorrebbero tutta la Valsusa lì a Milano Expo 2015. Grazie Francesca, salutaci. Grazie, naturalmente la Valsusa. Grazie, buonasera. Ciao Francesca. Sentiamo, non è in questo momento Bocelli che sta cantando? Ma dovrebbe essere però un tenore, se non sbaglio. Chiediamo conferma a Laura Bettini, che è lì al concerto per noi. Cara Laura. Roberta, cari ascoltatori, non ho sentito cosa hai detto, stata proprio nel momento in cui passavi a me il microfono, per no, così dire. Semplicemente dicevo, in questo momento non c'è Bocelli, vedo lo schermo, c'è un stato, mi spiace, tenore, l'avete perso, sì. È stato prima. Ma ricanterà, immagino, no? Ricanterà, penso proprio di sì, insomma la stella della serata è lui, sono tutti bravissimi, grandi applausi, è una bellissima serata, probabilmente più pensata per la televisione che per chi è in piazza, perché ci sono quei momenti un po' morti a volte, che sono tipici degli spettacoli televisivi. Senti, ma comunque la piazza mi pare sia abbastanza piena, il tempo ha retto per fortuna, almeno per stasera, no? Sì, il tempo ha retto, la piena, per quello che posso vedere io mi sono un po' stata da quell'angoletto di prima, spero mi sentiate meglio, però appunto la piazza è gremita e gli applausi sono seriamente scroscianti, cioè non c'è finzione, ecco, in quello che sentite dalla televisione. E ho sentito prima la signora della Valsusa un po' preoccupata per via dei lavori che sono ancora in corso. Beh, è passato poco fa il commissario straordinario di Expo Sala, l'ho visto molto molto rassicurato rispetto a qualche settimana fa, e quello che poco che manca, lui commenta che si possa fare, ha detto io non dormirò stanotte, andrò là. Diciamo che ha tirato fino adesso e almeno fino a domani che c'è l'inaugurazione, poi tutto probabilmente si spera sarà in discesa. Laura Bettini, senti, ma in programma, a parte Bocelli e questo credo tenore, non mi sembra un baritono, sì, però non sì, vorrei... sì, anch'io ho perso un po' il filo adesso che stavo aspettando la linea, però sì, anch'io condivido, mi pare che sia così, ma da poco esperta non vorrei dire bestialità. Il programma è lunghissimo e come dicevamo nel corso dei GR di Radio 24, qui si tratta di una rassegna dell'opera romantica e realistica italiana, quindi abbiamo Verdi, abbiamo Puccini, abbiamo Rossini, abbiamo un programma lunghissimo che si prevede finirà giusto per la mezzanotte, cioè quando è l'ora di abbassare gli altoparlanti. Poi è suggestivo perché proprio non è esattamente sul sagrato del Duomo, no? Io vedo la prospettiva da qui, è un palco che è stato costruito davanti alla scalinata del Duomo di Milano, dove sì, c'è l'orchestra. È davanti alla scalinata del Duomo di Milano, nel pomeriggio si poteva quindi ancora passare dietro, c'erano le file dei turisti che cercavano di visitare il Duomo, ma chissà quanto avranno atteso oggi. È davanti, ricorda come scenografia quella del Padiglione Italia, no? Vuole riprendere un po' quella decorazione. Purtroppo le condizioni del tempo hanno costretto a questa copertura in plastica che non è elegantissima vista dal vivo, magari in televisione si nota meno, ma oggi durante il giorno era un po' fastidiosa perché copre anche la bellezza della facciata del Duomo, finalmente insomma, no, ripulito, ce lo ricordiamo com'era anni fa, adesso è tutto un altro spettacolo. Vedo due conduttori, Antonella Clerici che è lì che ascolta Paolo Bonolis, non con un viso serenissimo, forse essendo un po' loquace lui sta rubando un po', le sta rubando un po' la parola. Sta decisamente rubando la scena, decisamente. La vedo contrariata, vedo il viso contrariato comunque. Ma la capiamo, che in fondo è un palcoscenico importante. Il mondo visione, il mondo visione lo stanno trasmettendo, certo. Sì, l'ho sentito esibirsi in russo, in arabo, in cinese, ha tentato di salutare tutti, ecco. E devo dire fa un po' il mattatore, ma è nel personaggio. Gli uomini sono un po' invadenti. Senti, ma guardandoti intorno hai visto tanti stranieri, perché a me è capitato in questi giorni di vedere tantissimi orientali, per esempio a Milano. Come sì, mi ce ne sono veramente tanti, ce ne sono veramente tanti, hai ragione, ci sono tanti stranieri e io ho persino incontrato però degli stranieri che mi hanno chiesto informazioni, perché ho la tipica faccia da informazioni, ecco. Sono sempre, sì, evidentemente, e mi hanno chiesto delle informazioni su che cos'è l'Expo, ma se è una manifestazione musicale, perché hanno visto il concerto, e se è una rassegna gastronomica, che c'è domani, no, c'è per 6 mesi, e insomma, quindi c'è anche chi non è stato vessato dall'Expo come noi italiani negli ultimi anni, ma che arriva e scopre bel bello che c'è un bel concerto fresco, in Piazza fresco. Del Duomo, che potrà andare a visitare questa cosa, che deve comprare però dei biglietti, che deve prestarsi, quindi forse non ce la fa in questa vacanza, dovrà tornare. Bisognerà carburare un po' per capire come funziona, ma ormai va. Grazie Laura Bettini da Piazza del Grazie Duomo, dal concerto. Ciao Laura, buon concerto. Grazie. Sentirei adesso all'800 24 00 24 Mario da Roma. Buonasera innanzitutto. Buonasera Mario. Complimenti, io la seguo sempre e sono quasi innamorato bene. Di lei. Grazie, mia moglie grazie. È gelosa. No, dica che non è platonica questa cosa, platonica Mario. Sì, è molto molto platonica ovviamente, molto platonica. E invece per l'Expo siamo innamorati, no, già. Poi io volevo dire che straordinariamente si sono inventato un nuovo sito che tutti i giornalisti e tutto il mondo sarà curioso di vedere. Io penso che sarà la cosa, ci saranno insomma dei giornalisti sguinzagliati come Segugi per cercare di fare fotografie, rubare immagini a una zona particolare. Quello è il camouflage. Cosa c'è dietro il camouflage? Il camouflage è una parola francese che risulta molto meglio, molto più elegante, ma è un camuffamento di quello che ancora non è finito. Sì, quindi sì, ci sono come delle coperture, sì, insomma, con magari dei pannelli. Secondo lei non sarà la parte più interessante, che incuriosirà. Ma magari all'inizio, poi si stuferanno anche di andare a vedere, preferiranno sì, concentrarsi su quello che più di concreto si può vedere. Poi ci concentreremo tutti su quello che c'è da mangiare, sulle bellezze che naturalmente ci saranno, però io credo che questa cosa qui sia curiosa, insomma. Sì, no? Sì, diciamo che non ci fa onore, però ringraziamo i tanti lavoratori e lavoratrici che hanno sudato tantissimo fino all'ultimo, ho sentito che hanno fatto degli orari terribili, si è dovuto accelerare alla fine, potevamo farlo meglio. Però si pensava che non ci saremmo manco arrivati. Ma io lo volevo volgere in positivo, mi sì, scusi. Prego, volevo prego. Volgere in positivo, cioè che hanno creato comunque una qualcosa che incuriosirà, per cui sicuramente usciranno degli articoli sui giornali. Bene, anche il camouflage avrà il suo protagonismo. Mario, tu chiami da Roma, a Milano quando vieni quindi a vedere l'Expo? Ma immediatamente, appena possibile. Ah, molto bene. Quindi già abbiamo i biglietti. Avete già i biglietti, come li hai prenotati online o cosa hai fatto? No, abbiamo fatto un altro percorso. Si può andare anche nelle agenzie, effettivamente, si può magari più facilmente. Mario, ti ringrazio, non perderti mai Effetto Notte, qui puntualmente grazie tutte le a lei, sere. Grazie, buonasera. Grazie, grazie. Adesso invece vedo, ecco, ogni volta alzo lo sguardo, Bocelli ha finito, non mi permetto mai di della sua fondazione, Antonella Clerici, l'Andrea Bocelli adesso. Foundation, che è partner Expo 2015. Perché come Andrea ama dire, il mondo è di chi fa, non di chi dice solamente, e devo dire che allora, io sono pienamente e allora naturalmente adesso andiamo sul concreto, come dice Antonella Clerici. Dicevamo dunque che il tema è il cibo e allora torniamo al cibo e all'Europa. Europa 24 notte. E Adesso saluto l'onorevole Paolo De Castro. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eurodeputato del PD, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, nonché relatore permanente per Expo 2015 della stessa Commissione. Tra l'altro ha appena pubblicato un libro che si intitola Cibo, la sfida globale, con introduzione di Matteo Renzi, quindi nulla di più pertinente, diciamo, di quella che è la sfida anche di Expo, no? E del cibo sostenibile, nutrire il pianeta e anche come superare questa contraddizione tra abbondanza e scarsità, tra fame e obesità. Quindi qual è questa sfida globale e come la si può affrontare e anche vincere, se fosse possibile? Ma intanto grazie. La sfida effettivamente è una sfida epocale, perché ci troviamo in un momento in cui forse non tutti hanno piena coscienza del fatto che la domanda alimentare sta crescendo a un ritmo superiore di quanto stia crescendo l'offerta. Da qui lo squilibrio che provoca sui mercati questo andamento di prezzi crescenti dei prodotti agricoli e la corsa alla terra, alle risorse naturali che sono scarse e che i paesi che hanno più paura del futuro e della possibilità di alimentare la loro popolazione, in particolare l'Asia e la Cina, vanno a caccia letteralmente della terra disponibile nel mondo per potersi approvvigionare in futuro. E sono sfide epocali che naturalmente ammettono risposte molto complesse che richiedono un impegno di tutti, una collettività che si renda conto della grande sfida per incominciare ad affrontare, a partire dalla ricerca, dall'innovazione, a partire dalla lotta allo spreco. Quello che abbiamo approvato oggi in Parlamento europeo è una risoluzione che proprio vuole chiedere alla Commissione Juncker di fare di più. Infatti, onorevole De Castro, ecco, oggi dalla plenaria di Strasburgo, cioè dalla riunione di tutto il Parlamento di Strasburgo, è stato approvato con 420 a favore, 126 contrari, 20 astenuti, quindi è passata la risoluzione Feed the Planet Energy for Life legata a Expo 2015. In che senso è legata all'Expo? Sta legata perché il titolo della nostra risoluzione che abbiamo costruito in Commissione Agricoltura, ma poi ha coinvolto tutti i colleghi di tante commissioni, aveva proprio il titolo dell'Expo, Feeding the Planet Energy for Life, cioè riassumere in sostanza quelli che sono gli impegni che noi chiediamo alla Commissione Juncker per affrontare queste grandi sfide, per affrontare con decisione, perché l'Europa può e deve a nostro avviso fare di più, come lotta agli sprechi alimentari, come maggiore impegno sulla ricerca, come un uso sostenibile delle risorse più attento, un protagonismo internazionale che possa guardare anche per esempio a una gestione più sostenibile delle risorse, come lo stesso land grabbing, questa corsa alla terra che deve essere regolata a livello internazionale. Cioè l'accaparramento della terra da parte delle nazioni più potenti, diciamo, no? Sì, non credo che si possa lasciare indisturbato una conquista graduale dell'intera Africa. È un problema che riguarda tutti, non c'è solo un problema di redistribuzione. Il tema non è i paesi ricchi e i paesi poveri, come siamo stati abituati, ahimè, il problema esiste ancora, non è che non ci sia, e che accanto a questo oggi emerge con forza proprio un problema di squilibrio delle risorse, e da qui alcune regole internazionali vanno poste, alcune decisioni a livello internazionale vanno prese. Onorevole De Castro, che ci sia stata questa risoluzione da parte di Strasburgo, che ci sia la Carta dei diritti di Milano, dove tutte queste buone intenzioni sono raccolte, sono scritte nere su bianco, ma per passare da questo ai fatti, cioè, la strada sarà lunga secondo lei? La strada è lunghissima, ma la responsabilità questa volta ce l'abbiamo proprio noi, perché l'Italia ha vinto l'Expo 2015 su questo tema proprio perché ha centrato la grande sfida dell'umanità, e quindi avendo il mondo intero per 6 mesi, da domani fino a fine ottobre, a interrogarsi su questi temi, noi dovremo riuscire, dentro quella famosa Carta di Milano che stiamo costruendo, dovremo riuscire a indicare alcune direzioni di marcia, alcuni impegni a livello internazionale. Io voglio ricordare il 5-6 giugno ci sarà l'incontro di tutti i ministri dell'agricoltura dei paesi ospiti dell'Expo, quindi più di 150 ministri che dovranno, ovviamente col nostro ministro Martina, lavorare per cercare di mettere giù una sorta di impegno, di manifesto per le politiche agricole del futuro. Cioè, oggi il tema non è più un tema solo di economia dei paesi sottosviluppati, ma riguarda tutti noi, riguarda il mondo occidentale. Bene, onorevole De Castro, io la ringrazio, la direzione è stata indicata, vediamo quando si passerà ai fatti concreti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Europa 24 notte. in collaborazione con Euronet Plus. È una iattura, cioè ogni volta che cerco di alzare il volume finisce un intervento eccetera, ancora lì il nostro finisce lì, niente, ce l'ha fatta. Mr. Lang Bocelli non vuol farsi sentire qui a Effetto Notte, evidentemente. Mr. Lang c'è, cioè Lang Lang è il pianista cinese che ha suonato per lui, però mentre ero con De Castro cantava, ha smesso in questo istante, proprio finendo questo spazio. Siamo insieme, vi dicevo, fino alle 23. Ci sono le vostre telefonate all'800 24 00 24, sulle vostre sensazioni, i vostri sentimenti, le vostre opinioni su questo grande evento dell'Expo. Dice per esempio questo ascoltatore, ci sono anche i messaggi al 349-238-6666 e le vostre posizioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Però c'è qualcuno che sta aspettando da un po', Carmine da Cosenza per esempio. Buonasera Carmine. Buonasera dottoressa Giordano e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, abbiamo un'occasione che secondo me tutta l'Europa ci invidia per quest'Expo, no? E a malincuore oggi alle 20 prendevo l'autostrada direzione sud a Parma e c'era un traffico, una scia, come se fuggivano tutti quanti da Milano. È veramente una cosa che mi è veramente dispiaciuto. Ma sai Carmine, il fatto è questo, che i milanesi di solito appena hanno la possibilità il fine settimana, soprattutto se c'è un ponte, perché un domani ponte, è il primo maggio, benissimo, proprio migrano via, scappano da Milano, perché chi ci vive quotidianamente forse la vive un po' pesantemente, è una città che offre tanto ma anche toglie, perché è frenetica, è rumorosa, a volte è un po' fredda anche nei rapporti, però appunto è una città piena di stimoli. Vabbè, però era un'occasione... No, ma l'inaugurazione magari vedrai che tanti milanesi ci andranno poi nel tempo, ci sono semi, cioè chi già vive qui come me, come noi, magari non ha una fretta impellente di andarci perché dice vabbè da qui al 31 ottobre si potrà, insomma lasciamo spazio anche agli altri. Carmine, tu da Cosenza, dalla Calabria, qua, pensi di salire a Milano a vedere l'Expo? No, perché sto scendendo, quindi mi dispiace veramente di non... Anche tu. Ah, te ne stai andando anche tu? Allora. È un'occasione per la nostra gastronomia italiana, per la nostra cucina mediterranea, per gli chef famosi in tutto il mondo. È una cosa che ci invita tutta l'Europa con questo Expo italiano. Certo, ma in sei mesi non troverai modo neanche una volta di venire? Sì, si può darsi ecco. Quando salgo. Bene Carmine. Ok. Ci contiamo con i milanesi, va bene? Okay, la ringrazio, gentilissima. E saluti alla Calabria. E poi c'è Secondo che chiama da Biella, quindi siamo di nuovo in Piemonte. Secondo? Sì. Posso parlare? Prego, prego. Buonasera signora. Buonasera. Le complimento soprattutto per la sua voce che è gradevolissima. Meno male, grazie. Io sono diciamo un ex compagno di un certo De Aglio, che era un vostro direttore, e quindi nel lontanissimo 1961 a Torino vi fu l'esposizione italiana, no? In occasione del 61. Beh, era una piccola cosa, no? Però c'erano palazzi, altre cose, c'era una monorotaia che doveva essere una cosa, venne lasciata pochi anni dopo all'abbandono. Essendo un quarto milanese, per mia fortuna, no? E tre quarti piemontese, non vorrei mai che succedesse una cosa di questo genere. Ma chiaramente questo è il mio, non è un, è un mio, guarda, io sono un realista leggermente pessimista, sono laureato in economia, ho fatto tante cose in quei campi lì, però sono felice di questo fatto, estremamente felice. Però non vorrei che dopo, passato il periodo dell'euforia cosiddetta, eccetera, eccetera, questo poi venisse lasciato così all'abbandono. Diciamo che questo è il mio sospetto. Secondo, la tua argomentazione è pertinente, nel senso che il rischio, quando ci sono questi grandi eventi, che quindi si costruisce moltissimo, strutture, palazzi, grattacieli, Milano ha cambiato proprio volto in questi ultimi periodi, il rischio è proprio che poi, passata la festa, gabbato lo santo, come si dice, e molte cose rimangono lì inutilizzate, appunto, come dici tu, abbandonate al degrado. Ci si augura che in una metropoli come Milano, con l'importanza che ha, non accada, ecco. Ecco, il problema è uno solo, ma tutte queste aree come saranno destinate? Punto di domanda. Sì, probabilmente ci si augura che in questi sei mesi, in questi sei mesi ci si pensi senza aspettare troppo, che ci si metta meno tempo di quanto tempo ci è voluto a costruire le strutture e quindi ci si organizzi per capire poi che destinazione avranno, secondo. Tutto va bene, madama la Marchesa, scendendo dal palazzo di fame, no? Ecco, d'accordo. E dopo? E dopo il punto di domanda, speriamo che questo punto di domanda diventi di darmi qualche... No, secondo, no, personalmente in questo momento no, è una domanda che si è fatta in tanti, in grado. No, secondo, però vediamo, probabilmente è una domanda che verrà spesso fuori nei prossimi mesi e vediamo quali risposte seguiranno. Grazie secondo, adesso prima del prossimo ospite, vediamo, Bocelli niente, scomparso del tutto da Mondovisione, ci sarà una pausa, invece volevo vedere ancora i vostri messaggi, Gianfranco sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che dice: l'altro giorno sul Corriere Online c'era una foto di un ingresso laterale al cantiere da dove entravano lavoratori abusivi, il male di quelli duri da combattere, dice Gianfranco. A proposito di lavoro nero, corruzione, abbiamo avuto prima poco fa qui Effetto Notte il capo dell'anticorruzione Cantone, che si diceva emozionato, orgoglioso, dice che insomma le cose dovrebbero adesso andare in modo liscio, ci si augura. Vediamo, sta riniziando il concerto, vedo ancora il pianista Lang Lang pronto al piano, vediamo se rientra anche Bocelli. Intanto suona Lang Lang. Sono le mani che corrono sul piano di Lang Lang. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, il numero verde eccezionalmente in utilizzo questa sera Effetto Notte, 800 24 00 24 per le vostre telefonate sull'Expo e anche sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni scritte, così come gli sms al 349 238 6666, su quello che i sentimenti che vi ispira, le curiosità, le aspettative, le domande dell'esposizione universale che apre domani. Adesso però vorrei parlare con Marco De Ponte, che è segretario generale di Action Aid Italia. Buonasera De Ponte. Buonasera a tutti. Parliamo della Carta di Milano, perché la Carta di Milano è stata definita appunto dal commissario unico di Expo Giuseppe Sala l'anima di Expo Milano 2015 a tutti gli effetti, cioè uno strumento condiviso nato dal lavoro di 500 esperti, dove ciascuno, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, soggetti di impresa, di organizzazioni internazionali, del mondo accademico, delle organizzazioni non governative, hanno lavorato per un unico obiettivo, cioè estendere una guida di indicazioni di buone pratiche suddivisa in 66 articoli a loro volta classificati in diversi capoversi, dove in ogni capoverso di questo documento si definiscono gli impegni di ciascun soggetto di fronte alla responsabilità di garantire a ognuno il diritto al cibo. Marco De Ponte, intanto diciamo che cos'è Action Aid. Action Aid è un'organizzazione internazionale che lavora in una cinquantina di paesi, anche in Italia. In Italia ci sono 150.000 sostenitori, gruppi locali di attivisti, quindi è un'identità di associazione molto forte, ma anche di organizzazione di cooperazione internazionale. E voi eravate coinvolti come Action Aid, come tra i soggetti della società civile, insomma, no? Che erano stati chiamati ad aiutare, a cooperare per questa Carta di Milano. È una carta, prima si diceva con De Castro e questa risoluzione che è stata votata al Parlamento europeo oggi, anche qui di indicazioni su come muoversi anche da parte dell'Unione europea perché ci sia il cibo sostenibile, le risorse redistribuite. Voi che cosa pensate di questi propositi? Ma, che appunto si... Sì, noi pensiamo che giusto che ci fosse un'iniziativa del governo che affiancava quella che altrimenti, essendo un'esposizione, rischia di essere solo quella, invece per essere un'opportunità per incidere effettivamente su come si nutre il pianeta, come si sconfigge la fame, la sostenibilità, è buono che gli stati, lo Stato italiano, lo Stato ospitante si sia mosso. Diciamo che abbiamo avuto modo anche di esprimere delle perplessità, nel senso che poi lo Stato italiano si è mosso ma non sta proponendo questa carta come base per un impegno di altri paesi a fare delle cose specifiche. È un anno importante questo, nel 2015 si riapproveranno i cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile che guideranno gli stati nelle azioni che si propongono di fare per lo sviluppo fino al 2030, quindi c'è anche un percorso sul diritto al cibo, probabilmente saranno i nuovi obiettivi 1 e 2. Lì gli stati si prenderanno degli impegni. Qua la Carta di Milano è una, diciamo, dichiarazione di intenti in cui il governo italiano chiama noi tutti, gli individui, le associazioni, il settore privato, come dire, a fare la propria parte. Però la nostra perplessità un po' da cosa nasce? Dal fatto che alla fine sono gli stati che devono essere garanti delle regole. E quindi in qualche maniera chiamare tutti a rapporto per dire ci impegneremo tutti, ma non prendersi impegni direttamente in prima persona come Stato, è un po' deludente. Anche perché ci sono delle cose che il governo italiano può fare direttamente in Italia per affrontare problemi globali. Io alla presentazione della carta ho avuto modo di richiamare per esempio la questione della ristorazione collettiva nelle scuole, cioè luoghi dove 10 milioni di persone tra bambini, insegnanti, fornitori enti locali, diciamo, definiscono cosa mangiano i nostri figli e quindi così definiscono anche attraverso la fornitura di questi 380 milioni di pasti all'anno un po' qual è la domanda di cibo, come viene prodotto, come viene distribuito, eccetera. Queste cose si possono regolare in casa e avere un impatto anche molto significativo. Questa per esempio è una partita da 1,5 miliardi. Allora io penso che nell'anno dell'Expo in cui apriamo, come dire, le nostre porte al mondo, se andassimo oltre le dichiarazioni di impegno e lo Stato italiano prendesse l'occasione per regolare partendo dal mettere ordine in casa propria, sarebbe un bene. Effettivamente, anche perché ricordiamo che oggi nel mondo circa 800 milioni di persone soffrono di fame cronica, più di 2 miliardi di persone sono malnutrite, eppure ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato, mentre le risorse della terra, le foreste, i mari vengono sfruttati in modo insostenibile. Quindi anche lo spreco del cibo è un argomento che certamente deve essere centrale in un'esposizione universale che sul cibo, il diritto al cibo, si concentra. No? Assolutamente, questi sono i numeri che dovremmo avere sempre presente. Sai cos'è? Il problema è che il cittadino comune di fronte a questi numeri poi dice va bene, io quindi che cosa posso fare? No, il messaggio che secondo me dovremmo riuscire in questi 6 mesi di Expo ad assorbire in Italia è che molto dipende sicuramente dai comportamenti individuali, quelli sullo spreco sono anche facili da capire, ma quelli che ho ricordato prima, per esempio su cosa si decide nelle commissioni mense a scuola, sono tutti contributi poi reali. Bisogna però dire che il sistema dell'agricoltura mondiale adesso così com'è non è né giusto né sostenibile. Non è giusto perché i piccoli agricoltori che producono il cibo che tutti mangiamo sono diciamo la categoria nella quale si concentra il 70% di quelle persone, gli 800 milioni che hanno fame. È un po' un'ironia, cioè chi produce il cibo poi ha fame, no? Mm-hmm. E non è nemmeno sostenibile perché appunto un terzo del cibo che viene prodotto viene sprecato di produzione, di trasporto e anche di consumo. Quindi superare, ci sono, insomma, tanti correttivi, questi insomma, paradossi, da poter fare molti concreti. Queste contraddizioni. Ci auguriamo, insomma, che si passi ai fatti, come si diceva anche prima con l'onorevole Paolo De Castro. Grazie intanto a Marco De Ponte, buon lavoro allora. Buon lavoro a voi tutti. Grazie. Prima di prenderci un'altra pausa, io direi di sentire all'800 24 0024, numero verde, Alio da Milano. Alio? Sì, buonasera. Buonasera. Roberta. Sì. Sono qui. Sono Alio Mar, non Alio, Alio Mar. Sì. E vivo a pochi chilometri dal Super Expo. Sì. Sono un brasiliano trapiantato qui più di 20 anni fa. Ah. Volevo dire che sono molto entusiasta dell'evento di per sé. Sì. E con un po' di rimpianto per come sono andate le cose, non perdiamo, dico non perdiamo perché mi sento italiano, non perdiamo l'occasione di farci notare per certe cose, no? Però nonostante tutto sono veramente entusiasta, spero che sia un'eredità importante per il futuro. che entrerà nella storia, il discorso della, il tema del cibo. E penso di visitare l'Expo almeno tre volte durante la manifestazione. Però... ho già acquistato diversi biglietti. Davvero, perché non credo che basta andare all'Expo. Essendo grande, una volta, hai ragione. Non credo di riuscirci in un giorno a vedere tutto quello che ho in mente di fare. Ho dei parenti, dei figli, eccetera, per cui dei amici, dei collaboratori a cui regalerò i biglietti, e sto promuovendo questa cosa. Caspitalio, sei un testimonial dell'Expo piccolo. Praticamente, eh? Ah, io sì. Ho fatto i salti di gioia quando Milano ha vinto la concorrenza contro Smirna e speravo in meglio, speravo in un indotto, in i lavori iniziati prima, finiti meglio, eccetera, eccetera. Però va bene così, averla che non averla. Sei un compendio, Elio, del pensiero di tanti italiani e anche milanesi che dicono, beh, insomma, abbiamo fatto una brutta figura, siamo arrivati proprio al limite, agli sgoccioli, qualcosa ancora lì nel camouflage, camuffato, però ce l'abbiamo fatta, può essere una grande occasione, vediamo come va, speriamo bene, e il tuo entusiasmo si sente, Elio. Ti ringrazio. Assolutamente. E buona visita allora, eh? Grazie. Ciao, Elio. Grazie, arrivederci, ciao. Ciao. La soprano si è andato di nuovo, Celi. Non ce la so, c'è la botte con. Ah, c'è tanto la soprano. Vediamo se riusciamo a beccare. Piazza Duomo gremita. C'è Bocelli che canta insieme a un altro baritono, penso. Bellissima Piazza Duomo, vista così, con le luci, con il palco, con la gente, con le sedie in tutta la piazza, ordinata. Fino a qualche giorno fa c'erano dei lavori, delle robe, delle cose che facevano pensare il peggio. Invece, con un po' di fretta, si è riusciti ad allestire. Adesso la voce di Bocelli si sente un po' poco, quindi andrei alla voce invece di Alfredo da Milano, che ha chiamato all'800 24 00 24. Alfredo? Sono chi? Sei chi? Sei proprio un milanese tu, Alfredo? Mi sono Milanese. Felice quindi di questa esposizione di Milano, esposizione al mondo anche esposta. Beh, certo, molto bello. Sei contento? Speriamo molto bene. Hai già preso i biglietti anche tu o aspetterai? Eh beh, il biglietto mio durerà per 6 mesi, perché spero di andarci tante volte, essendo anche tu un vegetto, quasi un vegetto. Beh, non direi dalla voce che sei un vecchietto, Alfredo. Senti, c'è un biglietto speciale. Che biglietto speciale? Ah, per quelli che hanno superato... Sì, per 6 mesi. 115 per noi è 89, mi hanno detto. Andrò a prenderlo in Piazza Castello. Per chi è grandino di età, insomma. Quindi, beh, sì. Mi sembra una buona cosa. I francesi dicono âgé. Âgé, sei un po' âgé, come voilà. Il camouflage suona anche meglio, più poeta. La mia telefonata, ero in macchina, ho sentito la vostra piacevole trasmissione e mi è venuto in mente che io, proprio a proposito di questo evento, già da un paio di mesi, ho fatto una considerazione su questo rifacimento, restauro che stanno facendo su questi monumenti che a Milano non commentiamo, alcune volte sono veramente... penosi, mentre invece abbiamo un monumento che è eccezionale, e che è il monumento a Carlo Porta, che è il nostro grande poeta. Sì. Carlo Porta era uno dei più grandi poeti milanesi del romanticismo, non solo milanese. E purtroppo il suo monumento, che non so neanche qualcuno l'ha visto, io ci passo davanti molto spesso sul 27, è in Via Larga, di fronte al grande monumento dei partigiani. È in un praticello con un piedistallo sul quale c'è scritto "I milanesi a Carlo Porta 1966. Non c'è altro. Non c'è una targa, ma purtroppo ho visto purtroppo ieri che in questo praticello, che è come un'aiola di una tomba, se vogliamo, con un monumento tombale, hanno messo un mostruoso una mostruosa insegna luminosa di quelle rotanti di pubblicità. Questa è una cosa vergognosa. Quindi, certo, è un binomio che sgradevole. Un binomio incredibile, che noi dimentichiamo Carlo Porta, che è un poeta. Il Manzoni ne diceva meraviglie, perché erano amicissimi, parlava in milanese con lui. E quindi che il suo monumento, oltre che essere abbandonato e non messo in rilievo, non ha neanche una targa in cui si descriva chi era Carlo Pozzo. Alfredo, diciamo che di queste cose ce ne sono un po' in giro anche a Milano. Purtroppo non potremo avere la città tirato a lucido e con la valorizzazione anche dei monumenti e degli angoli che meriterebbero, però insomma, per il momento accolgo naturalmente la tua critica. A Milano ce ne sono tante di cose da aggiustare. Vediamo intanto come va questo Expo. Grazie Alfredo, speriamo che sia l'occasione anche per cercare di rispolverare altre cose. Ciao Alfredo, buon Expo. Direi che adesso è il momento della pubblicità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi in questa puntata straordinaria di Effetto Notte, perché invece che chiudere le 22 siete con me in compagnia, io con voi sino alle 23, perché ci stiamo dedicando molto anche all'Expo, siamo alla vigilia, quindi per forza. Poi domani il palinsesto di Radio 24 si dedicherà tutto all'inaugurazione, che domani 1° maggio. Intanto per la vigilia però abbiamo tentato ogni tanto di ascoltare Bocelli, che è la prima grande festa dedicata a Expo, questa in Piazza Duomo a Milano con il suo concerto, con questa orchestra favolosa, e poi la piazza anche così tirata a lucido. Però legato all'Expo sappiamo che c'è anche il problema della sicurezza, se ne è parlato molto in questi mesi, poi il rischio terrorismo e poi le manifestazioni degli antagonisti, Black Bloc eccetera. Allora sentiamo, oggi ci sono stati in questi giorni dei blitz anche da parte delle forze dell'ordine in alcune case, in alcuni luoghi dove poi erano anche nascoste delle maschere antigas, delle mazze ferrate, insomma, quindi gente che sicuramente non aveva intenzione tranquille. E oggi ci sono state delle manifestazioni di protesta, una piuttosto tranquilla di studenti, l'altra di antagonisti che hanno imbrattato le vetrine del centro, dei negozi del centro e delle banche. Sentiamo un po' di audio di questi scontri. Ma c'è anche questo, e domani si spera che non sia moltiplicato, ecco, diciamo, questa protesta. Naturalmente le forze dell'ordine saranno dispiegate, e voi intanto potete continuare a chiamare l'800 24 00 24, il numero verde, per dire che cosa pensate dell'Expo, se è una grande occasione o meno, e quali sono le vostre riflessioni. E poi continuate anche con i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì la pagina Facebook, oppure i messaggi al 349 238 6666. Ma a proposito di questi disordini, del rischio di sicurezza, oggi il questore di Milano Luigi Savina ha detto che è tutto pronto, insomma, che c'è una particolare attenzione. Sentiamo. Noi abbiamo soprattutto una soglia di attenzione altissima, come giusto che sia, più che preoccupazione. Abbiamo avuto tutti i rinforzi che abbiamo richiesti, abbiamo avuto i mezzi, abbiamo avuto, come dire, tutta la disponibilità e tutte le risorse da parte di tutte le forze dell'ordine. Quindi in questa soglia di attenzione è giusto che ci sia, perché domani parte un grande evento, un evento universale. Poi ancora il questore ha detto che comunque Milano è una città sicura. Milano è sicura, il questore ci vive, ci vive con la sua famiglia, ha fatto di tutto perché questa città sia stata sicura nel recente passato e sia ancora più sicura in questi giorni e anche per i 6 mesi dell'esposizione. Diciamo poi la verità, come si fa a garantire la sicurezza in ogni angolo, in ogni luogo, in ogni posto pubblico di una città? Che poi l'Expo è grande sicuramente, dove finisce l'Expo, dove inizia la città, diciamoci chiaramente questo. Comunque adesso vedo una notizia di calcio, chi fosse interessato. Empoli-Napoli, il Napoli ha perso per 4-2 contro l'Empoli. Questa è la notizia arrivata pochi istanti fa, ma ora vorrei continuare a parlare di Expo con un famoso antropologo, uno dei rarissimi rimasti in Italia, che è Franco La Cecla. Ciao Franco. Buonasera, ciao. Che sì. Ha insegnato in California, a Parigi, in Spagna, nei suoi lavori ha affrontato a più riprese anche il tema dell'organizzazione dello spazio contemporaneo tra localismo e globalizzazione, e spesso ha parlato anche dei confini tra le culture. Qui i confini sono praticamente di vicinato adesso all'Expo, no? Con tutti i paesi che sono uno a fianco all'altro in questi padiglioni. Franco, che ti sembra da un punto di vista antropologico, culturale, umano? Ma guarda, dunque, io insomma, me ne sono un po' occupato, perché appunto poi ho fatto adesso questo libro che si chiama Contro l'urbanistica, in cui metto accanto vari ritratti di città, e uno dei ritratti è dedicato a Milano. Ma insomma, che mi sembra? Mi sembra che sia un'occasione magnifica sprecata, perché in realtà gli Expo servono in generale a ripensare la città, cioè ad avere una visione, diciamo, del futuro della città. No, questo per esempio è quello che è successo in altre città come Barcellona, dicevano le Olimpiadi, però insomma in qualche modo sono dei momenti che servono a migliorare la qualità della vita e il decoro urbano, e invece in questo caso è un recinto di tante scimmiette divertenti, ma è uno zoo per architetti, ed è molto meno invece un'occasione per dare a Milano, che ne avrebbe veramente bisogno, un'altra visione, perché appunto Milano è una città che fatica in qualche modo a essere una città in cui c'è una cura, per esempio, dei marciapiedi, in cui c'è una cura del verde, in cui c'è una cura del poter passeggiare, cioè proprio Milano ha una carenza di spazi pubblici significativi, no? È una città di vetrine che non lo è più, perché ormai le vetrine non possono competere col bisogno della gente di stare per strada, di socializzare, e invece questa è l'ennesima fierona che deve fare il botto, ma che poi in realtà fondamentalmente quando finisce non ha portato nulla. Cioè è un po' un'idea vecchio stile delle esposizioni, cioè l'idea che per esempio ha fatto sì che Siviglia abbia perso, perché poi sono rimasti questi ruderi dell'Expo, cioè insomma in qualche modo è proprio l'idea più affaticata e più inutile che c'è, e non è un caso che l'unica cosa che viene portata in giro sono queste belle statuine fatte dai soliti archistar che ci regalano per l'ennesima volta le loro tombe monumentali, no? Cioè così che uno si ricordi chi era Libeskind, chi era Norman Foster, cioè no, quando muoiono, perché vari uno architetti, dici. In più c'è una grande palestra di plagio, perché per esempio l'alberone, quello della vita, è completamente preso da delle cose che ci sono a Singapore da 5 anni, che sono 3 o 4 alberi, mi pare, no? Simili. Certo, il padiglione, quello che viene tanto pubblicizzato, che ha forma di nido, è un'imitazione di Herzog de Meuron, cioè ormai siamo arrivati a questa specie di plagio tra di loro, tanto loro se la dicono, se la fanno tra di loro, però non si capisce cosa c'entra l'interesse pubblico, cosa c'entra l'idea di una città come una città che offre nuovi spazi pubblici, e non c'entra nemmeno il confronto con altre culture, cioè è un recinto inventato per l'ennesima mostra delle belle statuine, però appunto diciamo non ha niente a che fare col presente, perché il presente è ben un'altra cosa, cioè è una Milano che si guarda alle spalle, che dice noi siamo in fin dei conti un posto di vetrine, una più una meno, tutto sommato, perché no? Quindi questa è la tua visione critica, e giustamente dal tuo punto di vista era giusto avere anche questa angolazione sull'Expo di Milano. Tu rimani, Franco La Cecla, voglio sentire un attimo un altro ascoltatore prima di finire, che è Massimiliano da Milano all'800240024. Massimiliano. Sì. Prego. Pronto? Sì, ci sei. Sì, buonasera. Buonasera. Io credo che farò in fretta, perché gran parte delle cose che volevo dire sono state appena dette. Per cui condivido quasi totalmente quello che è stato detto fino ad ora. Esattamente. Devo aggiungere che sono molto amareggiato per più aspetti. Il primo è che Expo Milano secondo me deve essere fatta a Milano. Peccherò di eccessivo campanilismo, però Rho non è Milano, prima cosa. Perché è Rho, nella zona Rho, sì, che è proprio il limite, al confine con Milano. È al confine, ma non è Milano. Ma non è tanto un voler denigrare Rho, che è una zona che ha già ospitato, e credo di poter dire purtroppo con non molto successo, la nuova fiera, che da quando è stata spostata in quella località per tanti motivi è andata morendo piano piano, facendo cioè tu morire... dici troppo decentrata, non è assolutamente decentrata. Allora, per quanto riguarda il discorso della fiera, non è assolutamente decentrata, perché spesso e volentieri io ho viaggiato per lavoro, io lavoro per alberghi, ho visitato fiere che spesso e volentieri in vere metropoli come Londra, come Berlino e altre città di questo calibro sono decentrate, ma sono anche molto ben collegate, non tanto con Milano, esattamente. Per quanto riguarda Expo, io direi che su Milano c'erano tante zone dove poteva essere organizzata la manifestazione. Per esempio? C'erano, per esempio, una su tutta la zona di Porta Vittoria, dove a oggi esiste ancora, ahimè purtroppo, la zona dell'ortomercato, del frigomercato, del mercato avicolo, del mercato dei fiori, del mercato ittico, una zona che come tante altre, soprattutto negli ultimi anni, è stata lasciata al degrado più totale, dove c'è totalmente, cioè, dove c'è totale disinteresse da parte delle istituzioni, ed è una cosa che si può riscontrare passeggiandoci ogni giorno. È una zona che contrariamente a tante altre avrebbe avuto tutto nel raggio di 500 metri, perché soltanto la zona del vecchio macello che guarda verso il Duomo, non tutti la conoscono, però c'è anche un particolare, se vogliamo, divertente o carino, perché la struttura principale, la galleria principale del macello, dell'ex macello comunale, rappresenta il profilo del Duomo di Milano e guarda proprio verso la Madonnina. Da lì si arriva a Piazza del Duomo con una passeggiata di circa 15-20 minuti. C'è la ferrovia, che c'è sempre stata, ferrovia da dove transitano i treni di Trenord e di Trenitalia, e che quindi avrebbero avuto anche molta più possibilità di collegamenti da Milano. Ricordiamoci che per arrivare ad Expo o ci si va in metropolitano, ci si va con la linea S5 o con un'altra ancora. Comunque la zona di Porta Vittoria sarebbe stata molto più servita in quel senso. Ho capito, abbiamo, ma purtroppo non abbiamo Expo, le autostrade tangenziali nel raggio di 5 minuti, l'aeroporto di Linate di 10, e si vede la Madonnina del Duomo di Milano. Per cui una zona che avrebbe potuto tranquillamente ospitare Expo sarebbe stata rivalorizzata, anche perché a suo tempo... Questo è vero, Massimiliano, ti dico solo, sei un conoscitore di Milano, ti dico solo, il rischio poteva essere che una città già molto intasata dal traffico poteva veramente diventare estremamente ingarbugliata, e poi chiudiamo, Massimiliano, giusto una risposta? Sì, velocemente, però voglio dire, ecco, la zona, ci sto passando poi per adesso perché sto tornando a casa adesso al lavoro, è una zona che di traffico ne ha da vendere e che probabilmente dopo i 6 mesi di Expo avrebbe respirato, perché questa è una zona da dove puntualmente ogni notte ci sono colonne e colonne di camion che devono entrare la mattina dopo all'ortomercato, che stazionano con motori accesi, che in ogni caso congestionano la zona. Ripeto, questa è una zona che poteva tranquillamente ospitare Expo. Poi per quanto riguarda il discorso della commercializzazione di Expo, Massimiliano, devo chiudere, scusami Massimiliano, perché sennò finisce che non ho poi tempo. Proprio una frase finale, Massimiliano, ti sento molto infervorato. Sì, perché se va male perdiamo il lavoro in tanti noi degli alberghi, per cui io spero che vada bene e spero che chi di dovere, se andrà bene, non abbia la faccia tosta solita di attaccarsi al carrettore vincente. Grazie Massimiliano. Grazie a voi, buona serata, grazie. Ciao. Franco Lacecca, l'hai sentito? Sì, certo, ma insomma io devo dire, non conosco bene come lui Milano, certo, sicuramente, cioè, quello che è sicuro è che l'occasione persa è l'occasione di ridare un decoro a questa città. Milano è indecorosa, cioè è una città in cui se uno passeggia per strada si arrabbia, perché dice, accidenti, ma perché? Perché questa incuria? Perché questa incapacità di questo fare il bello nei metri quadri? Rispetto a città europee, no? In Spagna, in Germania, rispetto a Roma, che è una città gestita malissimo, però diciamo, siamo in Italia, siamo nel luogo in cui è nata la bellezza urbana. Milano è veramente indecorosa e con una minima spesa si sarebbe potuto fare un investimento per ridare un senso ai marciapiedi, un senso all'illuminazione civica, un senso alle panchine, cioè sono cose minime, ma il decoro è molto più importante del botto di un Expo. Franco. pronto? Ah, ecco, no. Sì, pensavo fosse sì, un'occasione persa per certi versi. Ti sarebbe piaciuto adesso, per chiudere quel progetto iniziale di riaprire tutti i corsi d'acqua in Navigli, insomma? Ma certo, anche perché appunto magari possono anche essere inutili, magari non si sono più le vie d'acqua, però insomma almeno nella testa di Leonardo c'era un'idea della città. La cosa che mi fa rabbia quando vado a Milano è che Milano è antica quanto Roma, Sant'Agostino ci ha vissuto, cioè è una città pienissima di storia, non c'è la minima traccia nella gente, se uno cammina per strada, di tutta la grande storia che Milano ha avuto, e questo è un disastro. Il tuo messaggio, Franco Alcecchi, è arrivato forte e chiaro. Vediamo, ecco. Vediamo che cosa serve, cosa servirà questo esposto. Serve anche a questo, valorizzare la città, avere un'altra visione. Grazie Franco Lacecla. Grazie a voi, va bene, a presto. Ciao Franco, ciao. Abbiamo ancora tempo per questa telefonata di Franco dalla Lamezia Terme, quindi dalla Calabria. Franco? Buonasera Franco. Complimenti per la sua conduzione. Ti ringrazio Franco. Abbiamo proprio un minuto e mezzo. Un minuto Franco. Velocissimo, sì. In maniera velocissima, nel quale puntualizzo il mio compiacimento per questa manifestazione su Milano. Questo porto onore all'Italia, fuori discussione. Però dico che forse è stata anche un'occasione persa per fare una carta Italia come una carta Milano, ossia mettere in risalto turisticamente il meridione in maniera particolare, che poteva venire fuori una gran bella cosa per tutta l'Italia. Cioè tu dici poteva essere un'occasione, un polo d'attrazione per far convergere poi anche verso il resto d'Italia, possibilmente verso il sud, i turisti che dovrebbero arrivare a Milano. Poteva essere effettivamente un'idea, chissà se ci hanno pensato, magari, non lo so, adesso bisogna un po' scoprirlo anche questo Expo. Comunque mi sembra pertinente e intelligente la tua argomentazione. Grazie Franco. Grazie a te. Ciao Franco. Ciao. Adesso noi dobbiamo avere tempo giusto per il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, che ci deve dire domani questa inaugurazione sarà col sole, con la pioggia, e come sarà anche il fine settimana in generale al di là di Milano. Allora, buonasera Roberta, guarda, molto rapidamente, sarà un weekend lungo, buono al centro-sud, per il nord Italia invece molto più variabile. Anche la giornata di domani su Milano sarà piuttosto nuvolosa, a mio parere non rischiamo la pioggia a Milano, quindi per l'inaugurazione, ma in realtà sul nord Italia qualche acquazzone sia venerdì che domenica lo rischiamo. La gita fuori porta per quelli che vivono al nord è ottima da fare sabato, perché sarà la giornata buona anche per il nord Italia. Molto bene, quindi ci aspettiamo anche per il nord Italia un pochino, poi di Expo c'è tempo insomma per visitarlo. Certo. Comunque tanto Roberto, aggiungo che sono reduce da una passeggiata adesso in Piazza Duomo, io sono milanese da varie generazioni e ti dico personalmente sono fiero che la nostra città sia ora al centro dell'attenzione mondiale. Grazie Paolo Corazzon. Ciao Paolo, buon tempo a te, buona Milano a te. Anche Paolo ha voluto dire naturalmente qual è il suo sentimento rispetto a quello che sta avvenendo, chi è più contento, chi è meno contento. C'è Maria da Roma, non so se riusciamo proprio mezzo minuto, Maria. Ciao Scerazzadde. Dunque, ripristinare nelle scuole l'economia domestica, perché serve tanto che buttiamo tanta roba e la sporcizia, che anche per i maschietti, la sporcizia che troviamo per tutta Italia dipende da noi. Da noi italiani, e quello dovremmo già impararlo dalla famiglia. A proposito dello spreco di cibo, insomma. Ad ogni modo, viva l'Expo! Viva l'Expo, grazie Maria. Ciao Maria. Scheherazade. Buonanotte, grazie Scheherazade. E con questo direi che potremo avvicinarci alla chiusura. Sono state due ore intense, devo dire. Grazie anche alle vostre telefonate. Alla fine su Expo sono arrivate, sembrate più centrati sulla politica. Invece, vediamo come va. Insomma, siamo aperti a vedere cosa succede. Certe cose potevano essere fatte meglio, però. Restiamo a vedere, anche scopriamolo man mano. Ringrazio voi, domani ci sarà tutto il palinsesto dedicato, anche domani sera io non ci sarò, torno lunedì, ma si parlerà anche domani sera di Expo. Io ringrazio Cristian Goldoni, la parte tecnica Pietro Lacorte, voi con le vostre telefonate, i vostri messaggi, sapete che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. A questo punto, da Roberta Giordano, buon Expo a tutti.